tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, questa non è soltanto la settimana che porta Juventus-Inter, ma è anche quella del sorteggio mondiale che si svolgerà venerdì a ora di cena, più o meno in Sudafrica. Non a caso Blatter è già sceso in campo, questa è la sua grande settimana, come sempre nelle vigilie dei sorteggi. Già dai prossimi mondiali di Sudafrica 2010, quindi tra 7 mesi, il calcio potrebbe introdurre il doppio giudice di linea a supporto dell'arbitro. L'occasione di questa anticipazione è stata data dal primo incontro stampa di Blatter in questa settimana che porta i sorteggi. Blatter ha detto: l'esperimento di 2 arbitri addizionali dietro la porta fatto in Europa League potrebbe essere portato anche al mondiale. Se ne parlerà, ha precisato, all'esecutivo straordinario FIFA in programma mercoledì a Città del Capo. Ma non sarà l'unico argomento a sorpresa, diciamo pure, di questa riunione plenaria della FIFA, perché ce n'è un altro ancora più sorprendente. Ha rivelato Blatter che l'Irlanda ha fatto formale appello alla FIFA per essere ammessa al Mondiale Sudafrica come 33esima squadra. Abbiamo ricevuto una delegazione irlandese, ha detto Blatter, erano ovviamente infastiditi da quel che era successo, sapevano bene che la partita con la Francia non poteva essere ripetuta, che la decisione dell'arbitro era definitiva, non hanno chiesto alcun tipo di sanzione né per l'arbitro né per i giocatori, ma hanno chiesto: non potremmo essere la 33esima squadra del mondiale? Allo stupore dei presenti ha replicato con un: lo hanno chiesto davvero? Esamineremo questa richiesta, per l'appunto, nell'esecutivo FIFA in programma mercoledì a Città del Capo. Non so cosa succederà, ma di sicuro ne dovremo parlare. Tornando al campionato, è ovvio che alla luce di quanto è successo ieri la sfida di Torino ne risulta sabato sera in buona parte depotenziata. Intanto non si affronta più la prima e la seconda in classifica, ma la prima e la terza. E poi i punti di distacco, 8, sono davvero tanti. E anche una vittoria della Juventus non farebbe che riportare il distacco alla quota che c'era ieri pomeriggio, prima della sconfitta bianconera a Cagliari. Io ascolterei, per cominciare, in attesa delle vostre prenotazioni all'800 24 00 24 00 24, non lo so mai dire io sto numero maledetto, anzi benedetto, mi correggo, ascolterei innanzitutto la disamina di Ferrara su questa seconda sconfitta consecutiva della Juventus dopo quella di Bordeaux. Abbiamo subito un gol, tra l'altro molto bello, evitabile, perché quando capita una punizione contro sarà il caso di essere pronti e svegli nel non fargliela battere immediatamente, però è altrettanto vero che abbiamo creato poco davanti. Sicuramente non ci andava giù la sconfitta, non ci andava giù il risultato e c'era voglia di recuperare la gara. Secondo me abbiamo fatto di tutto per pareggiarla, in alcune occasioni magari non siamo stati precisi sotto porta, in altre occasioni sono stati bravi i loro difensori e anche il loro portiere. In un'occasione di sicuro né i miei giocatori e né i giocatori del Cagliari hanno responsabilità. L'allusione dell'ultima frase è evidentemente a un calcio di rigore reclamato da Amauri per un contatto con Pisani. Restiamo a Cagliari, perché si è molto infoltita la zona tra la zona, diciamo, pretendenti alla zona Champions League, che parte insomma, comprende come sempre Sampdoria, Fiorentina, il Genoa vittorioso, stravittorioso nel derby di sabato sera, ma arriva a comprendere la Roma, addirittura il Bari e questo magnifico Cagliari che sta, oltre che facendo certamente più punti del previsto, sta giocando anche un gran calcio. Allegri: oggi i ragazzi hanno contrastato la Juventus nel migliore dei modi, nel primo tempo giocando un ottimo calcio e concedendo praticamente neanche un tiro in porta alla Juventus. Il secondo tempo era normale che la Juventus venisse fuori e cercasse di recuperare la partita, ma ci siamo difesi ordinatamente. Credo che abbiamo avuto qualche occasione di contropiede non sfruttata nel migliore dei modi, poi dopo Matri è stato molto bravo a chiudere la partita. Quando hai una squadra di fronte come il Cagliari che ti pressa, che non ti fa ragionare, è difficile anche trovare gli spazi per poter avere delle situazioni importanti. Credo che oggi i ragazzi hanno messo in campo anche questo, cosa che in alcuni momenti della partita non abbiamo fatto a Milano, e non dobbiamo perdere assolutamente questo spirito, oltre sicuramente a quello di giocare a calcio, perché è una squadra che anche riesce a giocare, ha dei buoni giocatori a livello tecnico, e soprattutto siamo giovani e cerchiamo tutti, compreso me, di migliorare di partita in partita. Altro argomento introdotto da uno dei tanti sms già arrivati, lo firma Omar da Bologna e scrive: petardi, fumogeni e fuochi artificiali, eppure il derby di Marassi si è giocato regolarmente. E le tanto decantate regole ferree del dopo Raciti? È una buona domanda, caro Omar, ma sappiamo come vanno le cose. A proposito di Cagliari, sappiamo anche che... come già era successo qualche settimana fa con Balotelli e Muntari, anche ieri una parte del pubblico cagliaritano si è esibito in burazzisti nei confronti di Sissoko, ma nemmeno ieri il responsabile dell'ordine pubblico allo stadio di Cagliari se ne è dato per inteso. Andiamo avanti così, mi pare di capire. Andiamo avanti con Leonardo, che dopo questa vittoria, diciamo pure casuale per come è maturata nel finale, quando ormai tutto sembrava incanalato sul pareggio e il Milan avrebbe sinceramente meritato qualcosa di più, in ogni caso, per averci provato fino alla fine, poi invece è stato premiato prima da una papera del portiere del Catania e poi da un grande colpo di Huntelaar, che evidentemente nel giro di pochi secondi si era sbloccato anche mentalmente ed è tornato a essere il centravanti che aveva suggerito un grosso investimento prima al Real Madrid l'anno scorso e poi al Milan in autunno. Sentiamo Leonardo. Bon, direi che c'è sempre un percorso, no? Credo che lui ha fatto una settimana molto positiva, davvero, non è dire adesso che ha fatto due gol, sicuramente sono venuti, diciamo, una situazione estrema, sinceramente bellissima. Io credo che ci sono tante cose che puoi capire, altre cose io credo che parte dai sentimenti, perché questa storia di questa partita, ci sono tante cose dietro che mi fanno molto felice. Chiellini è stato operato stamane a Chivasso dall'otorino di fiducia della Juventus per la riduzione della frattura al setto nasale. L'intervento è riuscito perfettamente. Chiellini sarà in campo già da mercoledì con un tutore protettivo per aggregarsi al resto della squadra da giovedì e quindi dovrebbe essere disponibile ugualmente, nonostante la frattura al setto nasale, per la partita di sabato con l'Inter. Torniamo in onda con i primi interventi degli ascoltatori. Vi farei soltanto, pescherei soltanto, li stavo sfogliando adesso, alcuni dati statistici sulla giornata che Franco Piantalida ha preparato stamane. Per esempio, il Genoa non ha mai vinto tre derby di fila in campionato, invece quella di sabato sera è stata la terza vittoria, quindi è una prima volta. Ed è la prima volta nella storia anche che il Genoa vince un derby con più di due gol di scarto, perché non era, anche questo non era mai accaduto e questi due dati rendono storica la vittoria di sabato sera. Un'altra cosa molto molto curiosa indubbiamente è che il 7 dicembre dell'80 Gigi Del Neri, che allora giocava nella Sampdoria, segnò il gol del vantaggio nel derby direttamente da un calcio d'angolo, segnò direttamente su corner come ieri sera stava per fare Ronaldinho, tra l'altro a pochi minuti dalla fine della partita di Catania prima della doppietta di Huntelaar. Proprio da Catania ha chiamato Riccardo, buongiorno. Buongiorno dottore, grazie per aver chiamato. Senta, io volevo intervenire sul discorso del razzismo, perché io ho una certa età, quindi ricordo il calcio, insomma, anche degli anni scorsi, e francamente io mi ricordo per esempio nell'83 uno striscione a Udine con un Forza Etna, perché c'era un'eruzione, quindi voglio dire, prima è che forse i giocatori di colore erano di meno nelle squadre, quindi, ma non credo che scopriamo niente. Io, la mia proposta sarebbe questa, che ci sono dei cori razzisti, diciamo pronunziati, marcati, e allora la partita si interrompe e poi si rifà a porte chiuse, così diciamo rappresenta il passaggio giusto al calcio televisivo al quale ci dovremmo abituare. Però mi consenta poi un'ultima battuta, c'è anche da dire però che nel caso di Balotelli ho visto che spesso è veramente indisponente, ecco, e quindi è anche lui che crea le cose, cosa che mi stupisce, perché mi risulta per altra cosa che sia un ragazzo abbastanza impegnato nel sociale, quindi non si capisce perché quando entra nel campo, insomma, sembra che abbia una trasformazione, si trasformi in una persona un po' maleducata, ecco, diciamo così. Grazie, arrivederci. Grazie a lei, Riccardo. È sempre poi difficile stabilire fino a quando fino a quando la maleducazione possa essere un alibi per cori razzisti. No, secondo me zero, anzi un po' meno di zero. Secondo altri invece quella sarebbe una cosa. Io sinceramente, visto che Mourinho a quanto pare ha intenzione di depotenziare ulteriormente la sfida di Torino non portando Balotelli, almeno questa è l'intenzione che Mourinho ha annunciato ieri, credo che in settimana l'argomento potrebbe stemperarsi anziché crescere come si poteva pensare alla vigilia. Lo scopriremo vivendo. Con tutto il rispetto, scrive Stefano da Pavia, la richiesta dell'Irlanda, e cioè di fare la 33esima al mondiale, mi sembra un po' patetica. Lei cosa ne pensa? Penso, caro Stefano, che lei abbia trovato l'aggettivo più pertinente. Questa richiesta, anche a parer mio, è assolutamente, ci aggiungerei un assolutamente, assolutamente patetica. Carlo, dalla provincia di Perugia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Scusi. Un argomento contro la Moviola, o perlomeno la Moviola come è usata strumentalmente. Sul presunto o tale rigore dell'Atalanta contro la Roma, nessuno ha commentato che l'arbitro potrebbe aver dato la regola del vantaggio se poi l'attaccante dell'Atalanta, che non ha segnato, non è colpa dell'arbitro, ma di un'interpretazione della regola. Sì, però è anche vero che quando il vantaggio non si dare il vantaggio è giustissimo. Ieri c'è stato un errore netto, per esempio, dell'arbitro di Cagliari, che nel primo tempo ha fermato Gedà solo davanti a Buffon per dare un fallo al Cagliari stesso, in cui poi Sissoko è stato ammonito. La direzione corretta di gara prevede che l'azione venga lasciata correre, che Gedà tiri in porta, poi che fa gol o non faccia gol non fa nessuna differenza, e quando l'azione è conclusa l'arbitro va ad ammonire Sissoko. Questo siamo veramente ai fondamentali dell'arbitraggio. Ieri credo che se l'arbitro avesse visto fallo da rigore, fa bene a lasciar correre l'azione, perché poi un atalantino tira in porta, ma quando l'azione non si concretizza perché il pallone va fuori, beh, insomma, tra un calcio di rigore e un tiro fuori è evidente che il vantaggio è quello di concedere un calcio di rigore. Semmai si può discutere se quella fosse davvero un'azione da rigore o meno, ma non lì potremmo andare avanti per tempo, io credo, no? Cioè per molto tempo a discuterne. Giuseppe ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, due cose veloci. Una domanda da romanista, anche se riguarda il Milan. E se anche stavolta avesse avuto ragione il Cavaliere? Primo. E secondo, visto come sta andando il Milan, chiaramente, non per Ancelotti, anzi, ad averne di Ancelotti in Italia. E seconda cosa, l'Inter dice di voler abbandonare il campo in caso di cori razzisti. E chiedo, ma la Juve, intesa come squadra e non come società che sta facendo molto, dov'è? Sta alla finestra? Non dovrebbero essere loro a dire o la smettete o noi usciamo noi dal campo, non l'Inter, perché probabilmente è quello che i tifosi della Juve vorrebbero. La ringrazio. Ma io non starei ad attribuire delle precedenze su chi deve prendere l'iniziativa. Io credo che se davvero succederà o risuccedesse una cosa del genere, i due capitani si guardano. Intanto quest'anno non possono più far finta di non sentire come hanno fatto lo scorso anno colpevolmente, perché quest'anno si sa prima che può succedere, no? Secondo, si guardano, e poi chi dei due, e se la decisione la prendono contemporaneamente, secondo me è la cosa giusta. Quanto alla prima domanda, non è affatto da escludere che ancora una volta il Milan sia riuscito a risorgere dalle sue ceneri attraverso, come dire, la rimotivazione dei suoi vecchi campioni. Io credo che molto dipenda da quanto reggeranno i vecchi. Cioè, siamo a 14 giornate di campionato e mi sembra di capire comunque che gli uomini assolutamente imprescindibili di quel Milan sono Seedorf, che ne pensino i milanisti di casa che lo fischiano, Seedorf, sono Nesta, sono Ambrosini, cioè è tutta gente un pochino avanti con gli anni, e soprattutto quelli che giocano in mezzo al campo con questo modulo così avventuroso stanno spendendo molte energie. Certamente se continua a girargli in questa maniera, che poi di riffa o di raffa riescono a vincere anche quando non hanno creato molto come ieri, che era stata sinceramente una partita abbastanza mediocre, beh, insomma, andando avanti può darsi che si convincano sempre di più delle loro delle loro possibilità. Franco ha chiamato dalla provincia di Chieti. Buongiorno. Pronto? Dica. Buongiorno, volevo innanzitutto le faccio i complimenti per la trasmissione, che la sento sempre. Sì. E poi volevo soltanto chiedere una cosa in prospettiva dei mondiali. Nessuno ieri, a mio avviso, ha fatto caso con la facilità con la quale Matri ha superato Cannavaro. Beh, io per la verità ho fatto un salto sulla sedia, però è vero che non è stato fatto notare con grandissima rilevanza. Con la quale dovremmo andare in Sudafrica Cannavaro-Chiellini? Cioè, io le chiedo questo, un suo parere, perché a me sembra veramente incredibile che si possa ancora puntare su Cannavaro, che sarà stato quello che è stato, tutto, ci mancherebbe altro, però penso che non abbia più no, l'età. Al momento no sicuro, al momento no sicuro. Dopodiché io farei due riflessioni. Una è di segno, come dire, innocentista o possibilista, nel senso che mai sottovalutare l'orgoglio dei vecchi campioni che possono magari, che non hanno più la continuità di un tempo e non possono reggere una stagione ad alto livello. Nelle 6-7 partite di un mondiale, se gli danno fiducia, certamente possono avere un rendimento più elevato di quello che invece per ragioni di calendario va spalmato su molti mesi. Questa è una considerazione. Di segno opposto, io dico che dopo aver visto Cannavaro saltato da Matri ieri, a coronamento peraltro di una partita piena di incertezze e di esitazioni, e parlo sempre di Cannavaro e non solo di lui, di altri juventini, ma lui doveva essere però il caposaldo della difesa, quello che portava l'esperienza, che portava la compattezza, che portava insomma quello che doveva portare. Dopo aver visto Cannavaro nel pomeriggio, ho visto Puyol la sera giocare in Barcellona Real e fare quello per cui Cannavaro è stato ripreso dalla Juventus. Ecco, il Puyol che a corpo morto salva almeno 3 palle gol del Real Madrid nella sua area e poi fa da trascinatore, dà l'esempio a tutto il Barcellona, soprattutto quando resta in 10 contro il Real, è un giocatore che oltre che essere un grande è un 31enne, cioè è già avanti con gli anni, ma è al massimo della maturità, più o meno l'età che Cannavaro poteva avere nel 2006. Cannavaro ne ha 36 e mi pare che perlomeno ieri si siano proprio visti tutti, ma tutti. Adesso vi leggo un complimento diretto a me, cosa che sapete che faccio sempre malvolentieri, ma questo è, dato che è il più spiritoso di questi 10 anni, sinceramente spero di diverta anche voi. Buongiorno, mi chiamo Paolo Allievi da Bergamo. Per me juventino ascoltare lei è come andare dal dentista. So che mi farà male, ma potrebbe essere indispensabile per star meglio. Grazie Paolo, questa è veramente una bella battuta che così a cui mi è piaciuto dare, facendo un'eccezione una volta tanto, mi è piaciuto dare spazio e rilievo. C'era una mail che adesso rintraccerò. Sì, a proposito di Juventus, Paolo D'Asti scrive: mettendo a confronto gli 11 in campo ieri a Cagliari, mi viene, cioè i 22 direi io, mi viene questa considerazione: le sembra una così grossa sorpresa la vittoria del Cagliari, confrontando per l'appunto 11 giocatori considerati modesti ma allenati bene rispetto a altri 11 considerati buoni ma allenati in maniera modesta? Secondo me non è nemmeno così evidente la diversità di forza tra le due rose. Vabbè, adesso Paolo, io no, cercherei di non esagerare. Il Cagliari è certamente una buona squadra, ha certamente buone individualità, però insomma, io in questo momento certamente Allegri dopo gli stenti dello scorso anno, poi ripetuti tra l'altro all'inizio anche quest'anno, sta certamente cavando dai suoi più di quanto Ferrara non riesca a cavare dalla Juventus, però insomma mi pare che una differenza di organico resista e come. Da Genova ha chiamato Sergio, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Mi dica. Siamo da Genova anche se sono un suo conterraneo. Sì. Senta, volevo fare una riflessione un attimo sulla rissa che è successa verso la fine del derby, no? Quando è stato segnato il 3-0 da Palladino. Premetto che come genoano devo dire che Palladino se la poteva tranquillamente risparmiare quella sceneggiata di andare sotto la gradinata degli altri tifosi e quant'altro, però dalle immagini si vede che Palombo, che tra l'altro è il capitano della Sampdoria, lo va a prendere per i capelli, lo strattona proprio per i capelli. Le volevo chiedere se quella non potrebbe consistere in una questione da prova TV con relativa sanzione. Grazie, l'ascolto per radio. Grazie Sergio, ma non posso accontentarla, nel senso che dato che se li conosci lieviti, no, io mi sono messo in testa che sabato sera non avrei guardato il derby di Genova nemmeno a pagamento eventuale, ammesso che poi qualcuno fosse interessato a corrispondere denaro in cambio di una visione. Perché? Perché ho visto gli ultimi tre o quattro addirittura, ed essendo stati tutti, indipendentemente dal risultato, lei capirà che non sono particolarmente interessato né che vinca una né l'altra. Avevo deciso di risparmiarmi uno spettacolo ragionevolmente ignobile come i precedenti da un punto di vista sportivo. Da quello che poi ho letto nelle cronache ieri e ancora stamane, penso di aver avuto ragione, di aver vittoriosamente investito meglio il mio tempo libero del sabato sera. Questa è la ragione per cui non, davvero non le so rispondere, perché non ho visto un'immagine e intenderei continuare così. Alfredo ha chiamato da Latina, buongiorno. Buongiorno a lei, premetto che sono uno sportivo e non un tifoso, un mero osservatore. Ogni anno, ad ogni campionato, assisto alla stucchevole considerazione, alle stucchevole considerazioni sul ruolo che questa o quella squadra dovrebbe svolgere come anti-Inter piuttosto che come anti-Milan. Ma non sarebbe più rispondente a buon senso aspettare? Abbiamo ancora 70 punti, credo, a occhio e croce a disposizione per poter recuperare. Questo serve a creare a tutti i costi e gioco forza uno scoop, oppure veramente non si ha di cos'altro parlare di calcio? La Juventus è incappata in una sconfitta importante, seria, perché mette a nudo quelle che sono le difficoltà di una squadra che non ha gioco, è tutto quello che vogliamo, ma vogliamo comunque rispettare in termini probabilistici e di buon senso, ripeto, ciò che potrebbe accadere di qui a 3 mesi, a 4 mesi, perché saremo qui a discutere. Alfredo, però mi scusi, cosa facciamo? Lasciamo le pagine bianche in attesa di un verdetto finale nel frattempo? Oppure parliamo dei campionati scorsi dicendo quello attuale in fondo al momento non è ancora così probante? No, io sono d'accordo, però allora... dico in termini così perentori, dire che la Juventus ha perso il ruolo di anti-Inter a vantaggio del Milan, ma dico, ma piuttosto che della Fiorentina. Sì, sì, Alfredo, mi scusi, io non ho detto questo, e non, anche perché non no, lo penso. No, non ce l'avevo non, con lei. Io no, ho capito, non lo penso, ma però restiamo ai numeri. I numeri qualcosa cominciano a dire. Ho qui sott'occhio una statistica pubblicata oggi dal Corriere dello Sport, per esempio, che lunedì è sempre molto puntuale da questo punto di vista. Nelle ultime 8 giornate la Juventus ha perso 9 punti dall'Inter. Beh, questo sarà, come dice lei, transitorio, sarà che tutto può ancora cambiare, eccetera. Ma nel frattempo in 8 giornate ha perso 9 punti dall'Inter e credo che insomma, numeri di questa portata qualche riflessione la debbano autorizzare. Poi sono il primo io a essere d'accordo con lei, siamo a un terzo appena abbondante di campionato, 14 giornate su 38, e quindi questo autorizza cautele, ma se però oltre a questi numeri che ho appena letto c'è una linea di tendenza che sembra consolidarsi, e cioè che la Juventus anziché migliorare flette ulteriormente, credo appunto che qualche riflessione l'autorizzi. Lei pensi che sta addirittura autorizzando la dirigenza juventina a cercarsi, a cominciare a pensare a un eventuale allenatore di scorta, e ammetterà che forse qualche riflessione viene autorizzata da ciò. Samuele ha chiamato da Varese, buongiorno. Buongiorno Garanzini, complimenti. Ma un po' bloccato dicendo che non ha visto il derby, quindi ma nel modo più assoluto non è che sto bluffando, proprio non... non vedrò nemmeno il prossimo. Poi me ne perderò uno un giorno, ho giocato in maniera civile sia in campo che sui cosiddetti spalti, e il successivo tornerò a vederlo. No, ma anch'io sono d'accordissimo, perché non perché sono sampdoriano, però mi spiace per come il Genoa ci ha imposta la partita solo e soltanto sull'attacco fisico. Cioè Cassano non ha potuto giocare per mezz'ora almeno, falli sistematici, e poi nel senso, se ci fosse un arbitro alla collina, non si vedrebbe quello spettacolo. Ma io questo, Samuele, su questo le ripeto, io non mi so esprimere perché non ho la minima idea. Ho letto però che l'arbitraggio di Rosetti è stato giudicato pressoché perfetto da tutti gli osservatori di cui mi fido, significa che evidentemente avrà operato per il meglio e quindi avrà tutelato perlomeno entro certi limiti anche Cassano, che non mi sembra comunque in uno di quei periodi, ma non importa, ripeto, non so, se uno non ha visto è giusto che non parli. Andrea da Pescara, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io volevo dire una cosa riguardo la Juventus, che sì, finora non ho mai sentito. Riguarda Buffon in particolare. Lei che ne pensa della mia opinione, insomma? Noto che ultimamente non fa più le uscite alte. Io almeno mi ricordo sempre che si diceva che la palla nell'area di rigore piccola è del portiere. Dipende. Non sto notando più queste cose, in particolare, ecco, la partita col Bordeaux, noto che entrambi i gol ci sia stato un difetto da parte di Buffon. Cosa pensa lei? Penso di no, penso che Buffon abbia avuto una flessione in un certo periodo in cui aveva anche problemi fisici, ma che questa flessione sia ormai ampiamente superata nel tempo e che adesso al massimo Buffon possa accusare possa accusare un malessere generico che è dovuto al malessere generico, ma ben più, che si traduce ben più pesantemente nella squadra e soprattutto nella difesa che ha davanti. Poi è ovvio che un portiere che ti abitua ai miracoli ti chiedi come mai non ha parato il tiro di ieri da fuori, però un portiere para se si immagina che gli altri che l'azione possa avere quello sviluppo. Insomma, lui non è abituato a una difesa o a un centrocampo che non mette un uomo sul pallone per cui gli altri nel giro di due secondi vanno al tiro da quella distanza, perché nessun juventino ha coperto, eccetera eccetera. Quindi credo che anche di questo vada tenuto conto. Sentiamo ancora Domenico dalla provincia della Spezia, buongiorno. Buongiorno a voi. Mi riconduco all'inizio del campionato, quando c'era in la fase del mercato per l'Inter, per tutti quanti, per la Juventus, che acquistando Melo, acquistando Diego, aveva ridotto il gap dall'Inter, quando l'Inter aveva già preso Melito, Eto'o, Lucio. E all'epoca dissi che francamente i 10 punti che dell'anno scorso se lo riprendevano tutti quanti. Ora, per carità, siamo ancora a 14 giornate, insomma, siamo già a 8, però questo mi porta a pensare che tutti quelli intervistati all'inizio del campionato, a cominciare da Lippi, sono un po' di parte, non hanno la visione in effetti realistica, o non danno la oppure, visione realistica. Oppure semplicemente sbagliano, Domenico. Per esempio, Lippi in questo momento esce un'altra agenzia. Non esiste in Italia razzismo nel calcio. Oggi Lippi lo ha detto a Vicenza parlando a circa 400 studenti delle scuole superiori, e quello del razzismo è un problema che non ci appartiene, ha detto, semmai fa parte della società civile, ma purtroppo fa notizia quando allo stadio si verificano cori particolari da parte di 10 o 20 imbecilli, così ha detto Lippi, che evidentemente invecchiando ha dei problemi anche a contare, secondo me, proprio banalmente a contare. Molto bello anche questo messaggio che arriva da Carrara, firmato Marco, a proposito dell'intervento prima di un ascoltatore di Latina che, insomma, in maniera molto paradossale sosteneva che è presto per dei verdetti. Paradossale no, perché ha ragione, ma insomma, per almeno anticipare, insomma, il messaggio di Marco da Carrara, molto spiritoso, dice: gli exit poll agostani sono un discorso, ma adesso con lo spoglio delle schede siamo abbastanza avanti per cominciare ad avanzare qualche opinione. Bravo Marco, d'accordissimo. È il momento del ripasso nella storia dello sport, la data del 30 novembre affidata come sempre a Nicola Filippone. Sembra ieri. 30 novembre 1999. A Tokyo il Manchester United di Ferguson conquista la Coppa Intercontinentale, battendo per 1-0 i brasiliani del Palmeiras. Decide una rete di Roy Keane al 35esimo. Lo United è la prima squadra britannica a conquistare il trofeo. In precedenza ci avevano provato il Celtic nel 67, lo stesso United nel 68, il Nottingham Forest nell'80, il Liverpool nell'81 e nell'84 e la Aston Villa nell'82. Torniamo con Giacinto, chiamato da Genova. Buongiorno. Sì, buongiorno Gigi. Sono, ho mal di denti anch'io, come l'altro che aveva mandato il messaggio sul fatto di essere juventino e ascoltarla è un po' come andare dal dentista. È carina quella battuta, molto, però. Molto carina, è verissimo peraltro. Volevo un paio di osservazioni. Sì. Per quanto riguarda la Juventus, io credo che la maggior parte alla fine delle responsabilità sia comunque sempre della società. Mi spiego, non metto in dubbio la qualità degli acquisti, che comunque sono stati costosi e sicuramente sono di qualità, ma io penso che un acquisto deve essere sempre finalizzato a un'idea che può avere l'allenatore di come mettere la squadra in campo. Io credo che in questo senso Ferrara sia molto molto confuso e non abbia come allenatore ancora, non abbia la personalità per gestire alcuni personaggi piuttosto pesanti comunque nello spogliatoio della Juventus. Ci vorrebbe un capello, ecco, tanto per un allenatore che fa abbassare gli occhi anche a personaggi come Rooney, come aveva spiegato forse in trasmissione l'altra volta. Sì. E poi una piccola difesa per ciò che riguarda Cannavaro. Io ritengo che qualsiasi difensore, più o meno in forma, più o meno bravo, se si trova davanti un attaccante con 10 metri di campo per puntarti, vada comunque sempre in difficoltà il difensore. Che poi non attraversi un gran momento, va bene, però io credo che sia la quadratura di squadra che non favorisce neanche i difensori, perché sì, ripeto, io questo... ho giocato a calcio, alleno e sono un attaccante, e quando mi trovo davanti 10 metri per puntare un difensore sicuramente posso metterlo in difficoltà. D'accordo, solo questo. Giacinto, no, su questo sono d'accordo, però se lei si trova di fronte uno dei difensori più forti del mondo, almeno teoricamente, beh, insomma, il problemino di come puntarlo, di come aggirarlo, di come andargli oltre se lo pone. Il modo in cui ieri si è fatto saltare da Matri è stato invece secondo me abbastanza imbarazzante, ma al di là di quello era il coronamento di una partita infelice, fermo restando che secondo me c'erano molte perplessità sull'operazione ritorno Cannavaro, no? al di là di quelle tifoidee, no? Iniziali, c'erano delle riserve di merito e mi pare che non fossero poi così infondate, anche per banalissime ragioni anagrafiche. Sono poi curioso di vedere nei prossimi giorni, perché mi pare di capire che i rapporti Moratti-Mourinho sono ai minimi storici, al di là dei reciproci attentati di stima, ma quella di ieri di Mourinho che scopre o fa finta di scoprire direttamente i microfoni che Quaresma si è stirato. E dice: credevo che avesse solo i crampi e invece mi dite che è stirato, ve lo ha detto il professor Combi. Beh, il professor Combi doveva dirlo prima a me, che è Inter Channel, ma questa è la cultura dell'Inter. Ecco, io penso che quel "ma questa è la cultura dell'Inter" non contribuirà a rinsaldare i rapporti precari che attualmente ci sono tra presidente e allenatore, ma che ovviamente restano ampiamente sotto traccia, con 7-8 punti di vantaggio in classifica. Tutto poi dipenderà molto da come andrà con Rubin Kazan tra poco più di una settimana. Ha chiamato Daniele da Bari, buongiorno. Garanzini, buongiorno. Semplicemente una battuta non polemica e col sorriso sulle labbra ad una addirittura che lei ha utilizzato all'inizio della trasmissione per parlare del Bari in Europa League, in zona Europa League. Sì. Guardi, le garantisco che se lei dovesse rivedersi, immagino che non l'abbia fatto, tutte le partite del Bari dall'inizio, no, della... No, no, me le risparmi Daniele. No. Mi risparmi che non ho fatto niente di male, dai. No, assolutamente. Poi infatti ho detto non polemica e col sorriso sulle labbra. No, certo. Se lei avesse visto o potesse vedere tutte le partite del Bari, le garantisco che con grande merito il Bari ha 21 punti quest'anno. No, di più, non ha capito addirittura. Allora, io l'ho visto giocare col Milan e con l'Inter, non ha ottenuto tutto quello che avrebbe meritato, e sostengo da tempo che, cioè, l'ho detto già ripetutamente in altre occasioni, che tra i migliori, tra i modi più moderni e divertenti di giocare a pallone oggi in Italia c'è certamente quello del Bari. L'addirittura deriva dal fatto che vale anche per il Parma, deriva dal fatto che sono due squadre neopromosse e che in genere si pensa, dato che si continua a dire, e secondo me non è così infondato, che il salto dalla B alla A è destinato ad aggravarsi nel tempo per via di una B che diventerà sempre più povera e di una A sempre più ricca, almeno teoricamente. Quando una squadra riesce a ottenere questi risultati e dopo 14 giornate, col permesso dell'amico di Latina, qualcosa cominciano a voler dire anche i punti, io credo che ci si debba cavare il cappello, pur conservandola addirittura, che è più del Bari che del Parma, perché il Parma comunque qualche tradizione in più ce l'ha e qualche soldo in più l'ha speso. Il Bari è veramente fatto in casa, ma è fatto in casa come le cose si facevano una volta, insomma, no? Con molta intelligenza e con molto gusto per la ricerca anche del bel calcio. Da Bologna ha chiamato Antonio, buongiorno. Buongiorno a lei, Grazzini, complimenti. Scusi, è carina questa, è appena arrivato. Claudio scrive da Monza, ma perché nelle scuole invece di invitare Lippi non fanno una ricreazione più lunga? La trovo carina anche questa. Oggi vi trovo spiritosi. Dica, scusi. Allora, due cose velocissime. E la prima è questa, no? I soliti, cioè è una settimana, 15 giorni che con i Bua, Balotelli eccetera, io ero allo stadio a vedere Bologna-Inter, e dei Bua non ce ne sono stati, ci sono stati una marea di fischi perché il signor Balotelli, che ha 19 anni, è pieno di soldi, no? Io non li guadagno in due vite i soldi che guadagna lui, sì, a 19 anni, e bisogna che la smetta di fare l'asino. Allora, è arrivato il pedagogo, va bene. No, si sente subito il piglio del pedagogo. No, posso dire la mia? Come il signor no? Balotelli è stato anche mandato via dall'Atalanta, dalle giovanili dell'Atalanta, perché non si comportava in modo corretto. Quindi il signor Balotelli... deve sempre signore, però. Come? Sempre signore, è interessante quel signore, sì. No, penso di essere una persona educata. Ma no? Si sente, infatti, e il signor Balotelli. Uh-huh. Il signor Balotelli deve stare con i piedi e probabilmente la gente negli stadi e fuori lo tratta come tratta qualsiasi altro giocatore, eccetera. Seconda cosa, seconda considerazione. Molto veloce perché siamo in chiusura. Molto veloce, molto veloce. Io ieri ho guardato il 90° minuto, non ho visto né Moviola né nulla sul fuorigioco inesistente di un metro fischiato con Di Vaio che aveva il pallone che lo avrebbe dato di fianco e con un gol certo al 99,9%. Non l'ho visto nemmeno io, Antonio, e me ne scuso con lei. Quanto al resto è molto chiaro, la prima volta che avrò occasione di parlare con Balotelli o comunque con i suoi familiari gli dirò che se il signor Balotelli comincerà a comportarsi secondo i suoi dettami di lei, Antonio, la smetteranno di urlargli negro di merda. La ringrazio del consiglio anche a nome della famiglia Balotelli. Ringrazio anche Valeria Bernardi e soprattutto in regia, Franco Piantanide e Flavio Suardi in redazione. Buon pomeriggio a tutti.